Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, buongiorno, quarta puntata della seconda edizione domenicale di Restiamo Animali. In realtà siamo alla 35esima puntata delle nostre grandi e piccole trasmissioni e siamo lieti di annunciarvi che Restiamo Animali conquista spazi ulteriori nel palinsesto di Controradio. Come i più attenti di voi avranno sicuramente notato, andiamo adesso in onda non solo la domenica alle 12 ma anche in versione breve il giovedì alle 9.55 con replica sempre il giovedì alle ore 15.40. Con un taglio più squisitamente giornalistico. E la pianura padana e il grande est europeo saranno oggi luoghi protagonisti del nostro viaggio attraverso l'animalismo, l'antispecismo e le buone pratiche vegan. Faremo una breve gita a Parma dove conosceremo la capretta Giacomina e poi in Romania a vedere quali miracoli può compiere una donna che decide di cambiare tutto nella sua vita e da pubblicitaria milanese diventa devota alla causa dei cani randagi a Bucarest. Torniamo poi sugli Olimpi, sulle alte vette della filosofia, col professor Luigi Lombardi Vallauri. Torna la rubrica e le chiacchiere filosofiche con il nostro amato professore animalista che questa volta ci parlerà di non violenza. Torneremo in Emilia per una ricetta che la nostra amica Sara, col suo delizioso accento emiliano, ci servirà ed sarà una ricetta che incrocia la tradizione anglosassone con un ortaggio decisamente locale, colorato e di stagione. Di nuovo ad est, nella Grande Russia, per un classico della letteratura dall'autore di Guerra e Pace, Anna Karenina, Lev Nikolaevich Tolstoi, che ha qualcosa da dire contro la caccia e contro il mangiatoio. Saranno con voi per questo viaggio Camilla Lattanzi e Lorenzo Guadagnucci. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Siamo a Casaltone di Sorbole, nella provincia di Parma, vicino alle rive del torrente Enza, dove la provincia di Parma poi diventa provincia di Reggio Emilia. Quindi siamo tra Parma e Reggio Emilia. Il paesaggio è ovviamente piatto, siamo in piena pianura padana e dove ci troviamo in questo momento c'è una villetta con il cancelletto aperto, mi sto avvicinando, dentro vedo una capretta. Sembra quasi faccia le veci di un cane da guardia, anche se c'è anche un cane. Mi avvicino al cancello della villetta e spero che mi facciano entrare. C'è una signora seduta. Permesso? Buonasera. Buonasera, ciao. Buonasera. Cara. Allora, siamo qui con la signora? La signora Mirtilla. Signora Mirtilla. Dunque, vedo che nel giardino di casa sua c'è una bellissima capretta. In gran salute, anzi direi troppo abbondante. Ha una gran panciona. Sembra messa bene la sua capretta. Come si chiama? Si chiama Giacomina ed è una capretta che ho trovato, che avevano abbandonato vicino a un cimitero legata con una catena, al che io quando andavo dal mio papà la sentivo e la sono andata a prendere in macchina e l'ho portata a casa. Era selvatica, mentre invece adesso... Da quanto tempo ha questa capretta, Giacomina? Saranno 7-8 anni che ce l'ho. È la prima cosa che faccio al mattino, la vado a prendere nella sua stanza, che c'ha la sua stanza tutta sistemata. D'inverno gli metto la lampada che riscalda e poi c'è il telo e lei sta al caldo, poi viene fuori perché lei sola non ci può stare. Se non la vedo al mattino presto mi fa morire l'ansia. Io la devo vedere perché io e lei parliamo. E poi lei esce con me e tutto il giorno ce l'abbiamo qui in cortile. Lei accompagna mia mamma perché mia mamma è disabile. Poi naturalmente le fa anche un sacco di dispetti. Cioè che dispetti le fa? Avendo il cestino nel deambulatore che ha dentro tantissime cose, le sue cose personali, si porta un giornale, un libro. E lei naturalmente le fa di tutto finché non le ha vuotato il cestino. Al che si sente mia mamma che urla, Mirtilla, Venne a vedere che lavoro, la ma porti via tutto. È vero, è una cosa. Tutti i giorni immancabilmente è una sceneggiata. Poi le fa delle gran risate, lei, la Giacomina, fa delle risate a mia mamma come per dire te l'ho fatta. No, ride. Altro che se ride. Davvero? E come fa quando ride? Tutti i denti ti mette fuori, tira su tutto il labbro superiore, no? Ti mette fuori i denti. Come dire, t'ho fregato. No, ma lei proprio ti fa capire che t'ha fregato. E ti ha fregato, effettivamente. E in effetti ti ha fregato. Giacomina sta mangiando una sigaretta. La notizia è che mangia la sigaretta. La sta masticando per intero, incluso il filtro. Tutto, le non piace ci posso da morire. Credere. Le piace da morire. Giacomina, mangiatrice di tabacco. Sì, sì, sì, è una grande fumatrice, come del resto noi in famiglia, è vero già? Già. I figli somigliano sempre un po' ai genitori. Esatto, poi lei è proprio... Anche nei vizi. Esatto, poi lei è proprio la mia bambina, lei è una... Luigi, metti via quelle sigarette lì, per favore. Questo è per il marito, non è per la capretta. Confermo, sta mangiando il pacchetto intero. Ecco, vedo che c'è una battaglia tra Giacomina e il marito della signora Mirtilla. Il marito brandisce una scopa, ma non mi sembra che la capra sia in grande soggezione. Ma figurati. Quando d'estate io faccio pulire la Molly dal parrucchiere. La Molly sarebbe il cane. Il cane. Le faccio tagliare il pelo perché ha il pelo lungo, d'estate la faccio pulire. Quando veniamo a casa, lei non riconosce più la Molly. Si mette lì nell'angolo, aspetta che la Molly passi e lei giù botte da Orbi. Le botte significa cornate. Così. Per lei sono cornate, così, con la così, testa. Sì, sì, sì, con sì, la, sì. Con la, no, non è. Ma delle con volte... i cornetti, però insomma i cornetti fanno male. No, delle volte me la fa anche piangere. È attenta, lei sa tutto, è attenta a tutto, guardala. Ma la tentazione di tenerla in casa, di metterla sul letto, non ce l'ha avuta? Ma sai che le prime volte mi saltava sul letto? Perché? Quante volte ce l'ho trovata? Che bello! Delle volte perché apre la porta da sola, va in casa. Intelligentissima! Apre da sola, va in casa e l'ho trovata più di una volta sul letto. La maggior parte delle volte me la ritrovo là in fondo nel salone. Perché sa che là c'è un vassoio con delle caramelle e cioccolatini. E quindi è là col muso sul tavolo così. Già. Guarda cosa ha portato il papà. Giacomina sta mordendo un angolo del giornale. Mangia il giornale. Mangia il giornale, sì. Davvero. D'altra parte i giornali, per la qualità che hanno, le notizie oggi quasi quasi se lo meritano. È la fine anche che di si più. Meritano e anche di più. Veniva qui un uomo che mi aiutava nei giardini di là. Gli ho dato un calcio in testa e gli è volato via il cornino. Sanguinava. Ma voi gli avete detto qualcosa a lui? L'ho picchiato. Gli ho dato una sberla e un pugno, poi gli ho detto vai a casa. Mi ha detto bimbo slamora, te ne compro un'altra. Gli ho detto no. E lei sanguinava, però dopo lei era tanto spaventata che è andata nella sua stanza, è stata là 3 giorni senza uscire. Era tutta in un angolo, spaventata. Io ho tribolato tanto, tanto, anche Luigi. Noi abbiamo tribolato a andare là a convincerla di uscire, che non sarebbe più successo niente di grave. Che impressione vi fa a Pasqua ora mangiare il capretto? Non lo mangio. Ecco. No. Ma sai quanti me l'hanno già chiesta prima che la volevano mangiare? Davvero? Delle volte ho paura. Quando andiamo via chiudiamo i cancelli, ma ci sono quegli individui lì che circolano, non si lascia prendere facilmente. Però sai, hanno delle trappole magari da chiuderla e... No, per l'amor di Dio, no. Posso mangiare un petto di pollo che lo prendo, il petto, ci faccio una cotoletta. No, non ho visto il pollo. Esatto, però se lei conoscesse il pollo, lo guardasse negli occhi e lo chiamasse per nome... Avevo un gallettino, Tiberio, mi è morto di vecchiaia, era alto così, rosso, mi veniva dietro, al mattino mi veniva sulla finestra, mi cantava. Alla sera, quando era il suo orario, andava nella legnaia e al mattino presto lui mi veniva a chiamare sulla finestra, mi faceva dei canti. C'era la gente che passava, che era esterefatta, chiamavo, no? Tiberio! Arrivava da qualsiasi parte era, lui arrivava di corsa, qui su, e si metteva qui. Che lei mi vede che io sono cambiata, che ho una borsa in mano, allora lei impazzisce, fa degli urli, si butta anche per terra, fa degli urli disperati. Allora io, lui mi aiuta, io corro in macchina, chiudo e parto. Però al ritorno te stai sicuro che io la becco. E quando passo con la borsa della spesa lei me le dà. È vendetta. Ma se non avessi lei io qui, che mi fa ridere, ma che mi tiene su di morale. Basta! Ma guardi di che tormento. Lascia brutta. Un saluto agli ascoltatori. Saluta! Saluta tutta Firenze! Animal House. Notizie, interviste, attualità. Siamo al telefono con Sara Turetta, fondatrice e presidente dell'associazione Save the Dogs. In che condizioni sono i cani in Romania, Sara? In Romania c'è una situazione drammatica di randagismo endemico in tutto il paese, quindi vuol dire che ci sono, in realtà i numeri sono difficili da dare, ma sicuramente parliamo di qualche milione di animali che vagano per le strade alla ricerca di cibo, vengono investiti ogni giorno, vengono catturati dagli accalappiacani ed eliminati senza scrupoli, sono alla mercé di chiunque e la situazione è davvero terribile, non è paragonabile a nessuna delle aree del nostro paese, dell'Italia. Ultimamente, Sara, è girato un annuncio. Voi state chiedendo delle risorse perché a quanto pare la crisi ve ne sta togliendo e voi avete dei progetti grandi in ballo in Romania. Sì, noi abbiamo sicuramente fatto un grosso investimento quest'anno che è la realizzazione di un canile modello per cani abbandonati, per 350 cani abbandonati. Siamo riusciti a mantenere gli impegni con i nostri sostenitori. Questo rifugio modello, che è davvero un qualcosa di straordinario non solo per la Romania ma anche per l'Italia, ovviamente ha drenato molte risorse ed è stato un investimento necessario perché purtroppo abbiamo dovuto abbandonare il terreno dove eravamo collocati, che veniva regolarmente inondato dal Danubio ed era tra l'altro a rischio di sfratto dal sindaco. E però questo investimento è stato fatto in un anno di profonda crisi, quindi a soffrirne adesso sono le attività correnti di Save the Dogs in Romania. Cosa vuol dire attività correnti? La mia associazione opera in questo paese, nel sud-est del paese, con 45 operatori, veterinari, infermieri, addetti alle catture, al pronto soccorso, persone che si prendono cura dei nostri animali, che non sono solo cani, sono anche i cavalli e gli asini. Abbiamo un camper mobile, sterilizziamo circa 2.500 animali all'anno gratuitamente e ne ricollochiamo all'estero circa 600, quindi veramente un progetto esteso, vasto, complesso, e avere un calo di risorse come quello a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi mette a rischio tutto questo. Come nasce, Sara, il tuo impegno in Romania? Nasce da un grande shock 11 anni fa, quando i giornali italiani e i media italiani parlarono di questo massacro indiscriminato di cani randagi nella città di Bucarest. Io, che all'epoca ero una volontaria, come grazie al cielo ce ne sono tanti in Italia, ho deciso di venire in Romania a portare degli aiuti e quel viaggio è stato una svolta nella mia vita. Io all'epoca ero una pubblicitaria e per un anno ho aiutato a distanza alcune associazioni e poi per una serie di vicende ho deciso di abbandonare il mio lavoro e di venire a operare sul territorio in maniera diretta perché non lo si poteva fare dall'Italia. Sicuramente i costi della Romania non sono paragonabili ai costi italiani o di un qualsiasi paese dell'Europa occidentale. Abbiamo un grosso vantaggio che è quello di avere un costo della vita più basso, quindi per nutrire ogni giorno tra i 500 e i 600 cani stabilmente ospiti nelle nostre strutture, nei nostri due rifugi, 60 equini, sterilizzare 200 animali al mese gratuitamente e un numero infinito di interventi di pronto soccorso e pagare 45 persone, tutto questo in un mese costa solo 45.000 euro, che se si pensa all'impatto del progetto non sono molti, però di questi tempi 45.000 euro al mese sono una cifra importante. E ecco perché siamo in un momento di difficoltà, rischiamo di dover ridimensionare le nostre attività e quindi di non riuscire a dimostrare ai sindaci a cui abbiamo fatto delle promesse che il nostro metodo è migliore del metodo applicato nel resto della Romania, che è quello dell'uccisione indiscriminata di questi animali. Cosa chiedi agli ascoltatori sensibili che possono essere interessati a darvi una mano? Sul nostro sito www.savethedogs.eu trovate tanti modi per aiutarci, non sono solo i fondi che sono sicuramente la cosa più importante, ma raccogliamo le 1000 miglia per permettere ai nostri volontari di volare in Romania praticamente a costo zero, raccogliamo materiale medico-sanitario, ogni settimana partono 1 o 2 pallet verso i nostri centri da Milano alla Romania. È possibile ovviamente adottare a distanza i nostri animali e seguire poi la loro storia, il loro percorso. Quindi l'invito è davvero quello di visitare il sito e di vedere ciascuno in base alle sue possibilità come è possibile contribuire a questo progetto che nasce veramente dal cuore delle persone, pieno di passione, pieno di ideali e di entusiasmo. A presto, grazie. Grazie a voi. Sostiene Vallauri. Ritroviamo dopo qualche tempo il professor Luigi Lombardi Vallauri, il nostro filosofo di riferimento. Proponiamo stavolta un ciclo di 3 interventi dedicati alla non violenza, una filosofia, un modo di vivere, di agire politicamente che ha molto a che fare con la tutela dei diritti animali. Prima di parlare di non violenza bisogna dire che la natura è un congegno violento, il mondo è un congegno feroce. Gli animali sono intrinsecamente violenti, i carnivori mangiano gli erbivori mangiano i vegetali. Il vivente è intrinsecamente violento perché ogni vivente è un sistema che si autoasserisce a scapito degli altri. Quindi la non violenza è una strana anomalia utopica in un mondo strutturalmente violento. I popoli sono violenti, non sono la natura. La storia, arriverei a dire, è violenza, non è solo violenta. Le religioni sono estremamente violente, hanno sacralizzato le 5 glorie della violenza, cioè la guerra, quasi sempre santa, la pena di morte, lo scettro del re sacralizzato dai sacerdoti, la grande caccia e il banchetto e soprattutto il sacrificio cruento di animali che c'è in tutte le religioni, quando non sono sacrifici umani. La non violenza emerge storicamente, per quello che so, in India, proprio a proposito della questione animali. In fondo era più problematico uccidere animali per mangiarli e sacrificarli che uccidere uomini che ti combattono. E i primi a mettere in questione le 5 glorie della violenza sono stati gli shramana, i rinuncianti, i monaci buddisti, i jainisti, che erano degli eretici, che poi infatti sono stati espulsi dall'India vedica, che però hanno definitivamente inquietato la coscienza induista. Hanno, per esempio, attraverso l'imperatore Ashoka, il grande buddista che sacrificava ogni giorno migliaia di pavoni e li ha ridotti poi a 3 nella sua reggia, dopo la conversione al buddismo, Ashoka ha inquietato il sovrano mitico Yudhishthira del Mahabharata, del grande poema epico indiano, il quale anche lui ha ormai un sacco di problemi a fare la guerra e a uccidere gli animali. Poi questa non violenza, se ci limitiamo ai grandi capi politici, si trasmette a Akbar, quindi dal buddista all'islamico, e dall'islamico a Gandhi, che è stato in fondo il terzo grande sovrano dell'India, tutti e 3 fra i più grandi politici della storia proprio perché non violenti. Con Gandhi la non violenza, da semplicemente ascetica, uno dei pilastri del Dharma e dello yoga, diventa politica, diventa uno strumento strategicamente superiore alla violenza quando hai a che fare con dei violenti. E da Ahimsa, semplice negazione della violenza, diventa Satyagraha, cioè la forza della verità, la forza della non violenza. È molto interessante che poi questa non violenza si è estesa anche un po' in Europa. Direi il più illustre italiano non violento è Capitini, il quale era segretario della Scuola Normale di Pisa. Gentile gli chiede la tessera fascista, lui dice no, viene licenziato a partire dal mattino dopo, inventa lo sbattezzo, cioè va dal vescovo di Perugia, lui era di Perugia, ha inventato la, la marcia della pace Perugia-Assisi, va dal vescovo e dice: non voglio più essere segnato come cattolico perché non aderisco a una religione per la quale tutti i non cattolici vanno all'inferno, eccetera eccetera. Io credo che la storia della non violenza, che sembra utopica, col passare dei millenni diventa sempre più realistica, cioè continuare nella linea della violenza sugli altri uomini e sugli animali e sul pianeta si rivela poco a poco irrazionale. Quello che mi colpisce più di tutto, ma forse ne parleremo la prossima volta, è questa sotterranea, invisibile solidarietà tra la non violenza, che nasce in pochi pazzarielli, diciamo, e invece la razionalità dell'essere, specialmente quando l'essere diventa dominio dell'uomo. L'uomo ha questa grande nobiltà, effettivamente, che almeno in alcuni personaggi, in alcuni indirizzi, si è chiamato fuori da quel congegno feroce di cui parlavo all'inizio. E quindi, come ho già detto altre volte, riconoscere una superiorità morale dell'uomo è tutt'altro che pericoloso per l'animalismo, perché noblesse oblige. In Occidente abbiamo Socrate che dice che fare ingiustizia è molto peggio che subirla, e che quindi ispira più compassione per il malvagio che per la vittima. E credo che dobbiamo proseguire cercando di mettere in luce le radici, ecco, non solo etiche e di aspirazione utopica o spirituale, ma anche razionali della non violenza. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ciao a tutti, sono Sara. Visto l'arrivo dei primi freddi, delle prime nebbie, delle mattine grigie, oggi ho pensato di raccontarvi una ricetta colorata, calda e confortante, perfetta direi per la stagione autunnale. Si tratta di un crumble salato con la zucca. La parola crumble significa crosta. Infatti il piatto è composto da una base, diciamo così, morbida, fatta da zucca, cavolo, cipolla e olive, interamente coperta da una crosta friabile e gustosissima, che prepareremo con la farina gialla e le nocciole. Gli ingredienti sono un bel pezzo di zucca, contate circa 2 tazze di polpa tagliata a dadini, 1/4 di cavolfiore, 1/4 di verza, 2 spicchi d'aglio, 1 cipolla rossa, 1 manciata di olive nere, 1 cucchiaino scarso di curry in polvere, semi di papavero, peperoncino. Per il crumble, 120 g di farina integrale, 100 g di farina gialla fioretto, 40 g di nocciole, mezzo bicchiere di olio di semi di girasole, acqua tiepida, sale, pepe, rosmarino. Iniziate tagliando dadini più o meno regolari, la zucca e il cavolfiore. Tagliate a pezzetti anche la verza, le olive e la cipolla. Ora fate soffriggere in una padella una bella capiente l'aglio e il curry con un filo d'olio. Aggiungete la cipolla, il cavolfiore, la zucca e la verza. Mescolate bene, aggiungete le olive, un pizzico di peperoncino e rosolate a fiamma vivace. Dopo qualche minuto aggiustate di sale e pepe, abbassate la fiamma e fate cuocere per circa 10-12 minuti finché il cavolo non diventa tenero. Se occorre, durante la cottura, versate un mestolo di acqua calda affinché le verdure non si attacchino al fondo della padella. Togliete dal fuoco e aggiungete i semi di papavero. Preparate ora il crumble. Tostate velocemente le nocciole in padella, giusto qualche minuto, finché non sentite che iniziano a rilasciare un buon profumino. Tritatele con il mixer, non troppo fini. Metteteli in una ciotola, aggiungete le 2 farine, il sale, il rosmarino tritato e, se vi piacciono, potete aggiungere anche altre spezie tipo curry, curcuma o cumino. Aggiungete l'olio e mescolate. Ora aggiungete acqua poca alla volta. Intanto impastate con la punta delle dita. Quello che dovrete ottenere è un composto sbricioloso, non omogeneo. Avete presente l'impasto della torta sbrisolona? Ecco, la stessa cosa. Ungete d'olio uno stampo che possa andare in forno. versateci il composto di zucca e livellatelo per bene. Sopra questo strato versate il crumble e compattatelo per bene con le mani in modo da ricoprire in modo omogeneo tutta la superficie. Fate cuocere in forno caldo a 180 gradi per circa 20-25 minuti finché la crosticina non diventa bella dorata. Io vi consiglio, prima di servire il vostro crumble, di lasciarlo riposare almeno 10 minuti, altrimenti rovente e vi ustionerete la lingua. Ovviamente potete provarne delle varianti con altri tipi di verdura. Io ho finito, vi abbraccio forte e risentirci alla prossima ricetta. Ciao! Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Maxim Gorky diceva che Lev Nikolaevich Tolstoi era la figura più complessa del XIX secolo. Il grande scrittore russo, dal suo rifugio di Yasnaya Poliana, a cavallo fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, fu un grande peroratore della causa della fine della violenza. Quella stessa violenza che aveva raccontato come nessun altro era mai stato capace nella letteratura europea, nel celebre romanzo Guerra e Pace. Tolstoi si era convinto che l'unica vera, profonda rivoluzione che si potesse immaginare cominciava nella coscienza degli uomini e per questo si batteva. In un libro ormai quasi introvabile, edito da Isonomia e curato da Gino Di Tadi, sono raccolti alcuni interventi di Tolstoi. Il titolo è «Contro la caccia e il mangiar carne». Tolstoi sosteneva che la guerra era la continuazione della caccia, ma con gli uomini nei panni del cacciato. E in questi scritti propone la sua riflessione morale, la sua lotta per il vegetarismo, esprime in questi testi il suo orrore per la violenza inflitta agli animali. In quegli anni, a cavallo fra i due secoli, Tolstoi visita un mattatoio, ne esce sconvolto e indignato. Tolstoi in quegli anni capisce che il mondo sta andando in un'altra direzione. Nel 1905 c'è la prima rivoluzione russa e di lì a poco la prima guerra mondiale porterà sangue e distruzione nel cuore dell'Europa. La stessa rivoluzione russa del 17 porterà grandi sofferenze alla popolazione. La cosiddetta civiltà gli appare intrisa di sangue e anche senza senso. In questi scritti condensa il suo tormento anche di ex cacciatore e la sua riflessione sull'attività spirituale, che gli pare la più grande, la più potente forza che muove il mondo e può cambiarlo. Gino Di Tadi scrive che la lettura di Tolstoi è un primo gradino verso la liberazione. Leggiamo alcuni brani da questi scritti. Un giorno che tornavamo da Mosca, alcuni carrettieri che andavano nella foresta a far legna ci presero sul loro carro. Era il Giovedì Santo. Io ero seduto davanti accanto ad un carrettiere grasso, sanguigno, rozzo, evidentemente un forte bevitore. Entrando in un villaggio, scorgemmo un maiale, tutto roseo, trascinato fuori da una casa per essere ucciso, il quale mandava urli disperati, che somigliavano a grida umane. Proprio mentre noi vi passammo davanti, cominciavano a colpirlo. Un uomo gli fece un lungo taglio col coltello nella gola. Il grido del maiale divenne più forte e più acuto e l'animale scappò via grondando sangue. Io sono miope e non potei osservare tutti i particolari. Vidi solo un corpo roseo come quello di un uomo e udii grida disperate. Ma il carrettiere vedeva tutto e osservava senza distogliere lo sguardo. Il maiale fu ripreso, rovesciato, finito. Quando le sue grida cessarono, il carrettiere sospirò profondamente e disse: «Ma non c'è dunque un Dio?» Questa esclamazione mostra il disgusto profondo che l'uccisione ispira all'uomo, ma il continuo esempio, le sollecitazioni dell'ingordigia, l'affermazione che tutto ciò è ammesso da Dio e soprattutto l'abitudine, conducono gli uomini alla completa perdita di questo sentimento naturale. Vi è una serie di atti riconosciuti indegni di un uomo onesto. La sopraffazione, la perfidia, le trappole, l'imboscata, l'assalto di molti ad un solo, del forte contro il debole, il ratto dei piccini ai genitori e viceversa, sono altrettanti atti vili per se stessi, indipendentemente dalla qualità delle vittime. Eppure, per una inconcepibile contraddizione, tutti questi atti vili e criminali sono compiuti senza scrupolo, apertamente, durante la caccia, dagli stessi uomini che rifiuterebbero di stringere la mano a colui il quale li pentisse verso gli uomini. Oh, chiudiamo con una notizia. L'ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, si è rivolto al Ministro degli Interni Cancellieri per chiedere maggiori controlli sulle attività venatorie. È stata l'occasione per stilare un primo bilancio delle vittime umane di questa pratica. Nei primi 35 giorni di effettivo esercizio dell'attività venatoria sono morte ben 13 persone e 33 sono rimaste ferite. Dovremmo forse ricordare al ministro Cancellieri anche un'altra frase di Lev Nikolaevich Tolstoi, il quale diceva nel libro che abbiamo citato prima: «Certo, la caccia non è la maggiore delle infamie che abbiamo ereditato dal passato, ma il suo vergognoso espandersi nei nostri tempi è molto istruttivo». Fotografie, interviste, ricette, approfondimenti, il podcast di questa e di tutte le precedenti trasmissioni nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com. In particolare vi invitiamo a godervi il nostro video PD Proteine disumane che troverete in home page e a firmare la petizione contro i circhi con animali che troverete negli approfondimenti datati 14 ottobre 2012. Cercatela, è un ordine. Potete scriverci a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it.